Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. I got into truck driving in 2007. I like to travel the country. That's one of the reasons drivers get into the industry. They want to see the country. It's a big, beautiful place. La voce che avete appena sentito è quella di Walter Martin, probabilmente il camionista più rilassato, più fortunato di tutti gli Stati Uniti. Ha appena consegnato 51.744 lattine di birra dopo un viaggio di 120 miglia sulla Interstate 25, percorsi più o meno a 90 km orari di media. Ma c'è un dettaglio: l'auto articolato della startup californiana 8 su cui si trovava ha guidato tutto il tempo per lui. Martin ha portato il tir sull'autostrada e si è accomodato sui sedili posteriori a leggere. Buonasera e benvenuti a Smart City. Torniamo questa sera, come avrete capito, a parlare di veicoli autonomi, ma non di automobili. Il trasporto merci, infatti, è tra i settori che guardano con maggiore attenzione a questi veicoli che si guidano da soli e per diverse ragioni. Prima di tutto c'è il fattore sicurezza, lo stesso che prevedibilmente farà da traino anche nel settore dei veicoli privati. Un veicolo a guida autonoma non si distrae, non beve, non ha colpi di sonno e, insomma, la possibilità concreta di evitare incidenti a mezzi da 50 tonnellate a pieno carico fanno anche un po' così passare in secondo piano i $30,000 di apparecchiature tra telecamere di precisione, radar, laser a onde radio e computer di bordo che servono per rendere un tir capace di guidare da solo. D'altronde, oltre a migliorare la sicurezza, i veicoli autonomi offrono anche l'opportunità di aumentare l'efficienza del sistema logistico. Infatti promettono minori consumi di carburante e anche più ore di uso dei mezzi. Inoltre, proprio i camion passano gran parte del tempo sulle autostrade, cioè i contesti di guida più facili, ma anche quelli dove, quando avviene un incidente, gli effetti sono più drammatici. Per tutte queste ragioni, quindi, e anche perché in paesi come gli Stati Uniti ci sono pochi autisti di camion rispetto alla domanda, è molto probabile che vedremo per strada i tir a guida autonoma prima ancora delle auto. Senz'altro la pensa così Lior Ron, cofondatore di Otto, la startup che ha sviluppato questi camion a guida autonoma e che Uber ha recentemente acquistato per $680 milioni. Ron ha spiegato che la tecnologia è pronta per la prima applicazione commerciale pilota, grazie alla quale nei prossimi 2 anni il sistema verrà testato in tutte le possibili circostanze e condizioni della strada. Pensando al futuro, sempre secondo Ron, si prevede che tir a guida autonoma come quello che ha esordito in questi giorni in California formeranno qualcosa come dei treni virtuali che viaggiano su una sorta di ferrovia software che corre lungo tutta l'autostrada, dove c'è un mezzo di testa che prende la guida di tanti tir che rimangono accodati. In seguito, in appositi punti di sosta, questi convogli verrebbero sciolti e i singoli tir affidati a vari autisti che li guiderebbero per l'ultimo tratto fuori dal percorso facilitato rappresentato dall'autostrada fino a destinazione. Ma anche noi vogliamo uscire dall'autostrada per l'ultima parte della trasmissione. Sentite che cosa ci ha raccontato Riccardo Cornetto, direttore commerciale di Coach Evobus, intervistato dal nostro Andrea Ferro, il vero esperto di trasporti di Radio 24. Ascoltiamo. Bus Rapid Transit, cosa vuol dire? Bus Rapid Transit è un sistema che si è sviluppato inizialmente in paesi ad alta via di sviluppo e più recentemente in Europa, in città come Granada, Strasburgo, Nantes, fino ad Amsterdam. È un sistema che prevede l'utilizzo di veicoli ad alta capacità di carico. Nella fattispecie noi abbiamo veicolo come il Capacity, che è un veicolo da 20 metri capace di trasportare 200 persone, veicoli che girano in corsie dedicate che intrinsecamente riescono a garantire un'alta velocità commerciale, riescono a garantire un'alta capacità di trasporto, quindi garantendo anche una bassa quantità di anidride carbonica emessa per passeggero trasportato. Analizzando un po' come dei tram su gomma. Assolutamente centrato il tema. Il sistema BRT è un sistema assolutamente vantaggioso. Il tram assolutamente è un veicolo che gira su rotaia, un veicolo elettrico, ha tuttavia costi di investimento e di realizzazione, nonché di progettazione, molto più elevati di quelli che può avere un BRT. Possiamo definire in un rapporto di 1 a 5 il costo di un BRT rispetto ad un sistema su rotaia. Poi c'è un tema particolarmente suggestivo, un mezzo che va da solo o quasi. Lo avete sperimentato ad Amsterdam? Proprio così. Come ha detto lei, abbiamo sperimentato ad Amsterdam, proprio in un percorso BRT, il nostro bus City Pilot, che è un veicolo, voglio essere preciso, a guida semi-autonoma. Vale a dire che il veicolo già riesce a percorrere lunghi tratti in maniera autonoma, riesce ad approcciare le fermate sia in arrivo che in ripartenza in maniera autonoma, ma tuttora richiede la presenza dell'uomo come persona in grado di sorvegliare quelle occorrenze che è opportuno che siano ancora sotto l'occhio vigile umano. Quindi per vedere un autobus completamente svincolato dal fattore umano bisogna attendere ancora parecchio. Assolutamente sì, pensiamo che ci sarà ancora molti anni da attendere. Torniamo in studio ma solo per salutarci, darci appuntamento a domani. Da Maurizio Melis, buona serata.